346. Sformato della signora Adele. La bella e gentilissima signora Adele desidera vi faccia conoscere questo suo sformato di gusto assai delicato. Burro grammi 100, farina grammi 80, gruyera grammi 70, latte mezzo litro, uova numero 4. Fate una balsamella con la farina, il latte e il burro, e prima di levarla dal fuoco, aggiungete il gruyère grattato o a pezzettini e salatela. Non più a bollore, gettateci le uova, prima i rossi, uno alla volta, poi le chiare montate. Versatelo in uno stampo liscio col buco in mezzo. Dopo averlo unto col burro e spolverizzato di pan grattato, e cuocetelo al forno da campagna per mandarlo in tavola ripieno di un umido di rigaglie di pollo e di animelle. Potrà bastare per 6 persone.